E chi è? Buonasera. Buonasera anche a lei. Ciao Antonello, sono arrivato adesso. Eravamo a Frattamona, però tua mamma a pigliare il gelato, a fare un giretto. Adesso sono tutto accaldato, mi sto derudando. Se vuoi ti allego foto. Ok, no, credevo avessi, non hai visto quello che ha mandato dei messaggi su Facebook, immediatamente sono trovati i carabinieri in casa, e l'hanno portato via. Ma bisogna vedere a chi li ha mandati i messaggi. Li avrà mandati a qualche donzella un po' troppo giovane. Che idioti. Ah no, aveva scritto che voleva ammazzare un paio di ebrei, aveva scritto. Fa così per terzo. Immediatamente si è trovato i carabinieri a casa, ha ciappato. Ah, non roba. Avevo capito che c'era tipo denudato, mandato foto nude. No, no, vabbè, di questi tempi. Un po' bisogna stare attenti a quello che si scrive online. Vabbè, l'idea era buona, però non si fa, per politically correct non si fa. Sì, non si fa, no. Anzi, non puoi farla proprio, perché adesso ti controllo. Anzi, vabbè, ci sono quelle ragazze da fuori che, capito, si mettono le tette fuori, ti scrivono ciao tesoro, scrivimi, ti faccio vedere quello che, le foto, il video, capito, e lì baga, capito, e stava facendo come una volta. Lo fanno, e poi troppe ragazze, magari che non hanno talento, stanno andando direttamente, anche abbastanza giovani, su OnlyFans, capito? Scelgono la via breve, però poi, non dico che si bollata la vita, però quelle foto rimarranno, i video in eterno, rimarranno in circolazione, capito? E così, insomma, loro per avere soldi facili fanno vedere le parti intime, e ci sono quelli che hanno il coraggio di pagare. Quando c'è tanta roba gratuita online, c'è bisogno di pagare una per vederle i piedi, aspetta, non faccio altro. Bisogno di soldi hanno quelle, c'è che ci va, capito, paga e per vedere chi sei, cosa, basta andare a centro storico, trovi quante ne vuoi, basta che guardi online gli indirizzi, ci sono il numero del telefono e cose del genere, tra via La Marmora e tutte quelle vie parallele che ci sono, ne trovi quante ne vuoi, trovi, oppure basta andare dietro alla cosa, direttamente in macchina o in moto, dietro al cimitero, e tu quante li vuoi, e tu. Una cosa così squallida, in via, come si chiama quella via anche del vialetto lì, non è via Predanietta quella, chiamata così, oh, vabbè. Sì, c'è tanti cinesi, vedi, una cinese più che altro, poi ci sono i travestiti vicino a casa di Paoletto, e sembrano donne, invece no, e poi questo distributore ci dovrebbero essere quelle un po' più normali, più donne vere, però sono delle disgraziate che vengono in Italia, magari gli fanno delle promesse di lavori veri, poi li sequestrano, li nascondono il passaporto o quello che è, tutti i documenti, capito, sono costretti a andare in strada, e lì bisogna prendere gli sfruttatori e dargli una lezione di quelle buone, e anche le sfruttatrici, per esempio delle nigeriane, certe donne si occupano proprio di questa, di portare le vittime qua da sfruttare, capito? Le cosiddette maman, così le chiamano, e altro che maman, maman vuol dire mamma, no? Invece quelle sono delle figlie Endrocchia. C'è le nigeriane, ci sono le rumene, che patto, ragazzi anche giovani, 14-16 anni, quando abitavo al centro storico, sai quante volte le vedevo per andare lì a dare lo screen, direttore e direttore del museo. Grazie, tanto perché €20 andiamo là dietro e facciamo quella, giusto, fa la cosa, vai a fare la cagata, gli dicevo, vai, che non devo andare in galera per colpa tua. Sì, soprattutto sono minori, loro se ne fregano, ho capito, se ne fregano, tu non lo sai magari, è certo che sembrano diciottenni. Un povero idiota ci va e magari arriva la pattuglia, fa i controlli e lì si è rovinato. Per cosa poi? Va, lasciamo perdere. Tutto lo squalo, vabbè, quelle poveracce. E vabbè, lasciamo stare questo discorso. Comunque, bella serata, bella serata, c'era anche gente con ombrellone. Caspita, questo è sole che abbronza, ma di brutto. E c'è caldo stasera, sì, sono riuscito a portare il cane, c'è un bel po' di caldo, ma l'altro giorno, per carità, dalle 3 del mattino l'ho ripassata l'acqua grandine, è freddo, poi la mattina quando sono uscito verso le 10, c'era bel freschetto, c'era. E oggi non è entrato nessuno, saranno tutti con gli yacht, capito, con gli aerei privati in giro, chi costa Smeralda, chi costa Lavorio. Cazzo, costa Lavorio, cosa ci vuoi fare costa Lavorio, uia. A meno che non vado a costruire qualche bunker, dici, a meno non ti tocca nulla. Sì, infatti l'ho buttata così, tanto per dire. Va bene, che altro dire? Dopo faccio una doccia che non finisce più, che poi la mia doccia è un bagno, capito? Certe volte rischio di addormentarmi anche quando riempio la vasca, e se finisci con la testa sotto, frattami, affoghi, non te ne accorgi. Perché? Avanti back, per quello non c'è andare dentro la vasca, a me non affoghi, avanti back. Ok, buonasera a Tonello, buonasera anche a Marco. Marco, te la posso fare un interrogativo? Certo, Gian Maria, sì, giusto. La modulazione è un pochino diversa, è un po' più citofonica, dimmi tutto. Ok, siccome è successo il 2009, no? E sei inserito i dischi sulla comunicazione dei canali, ma la stessa cacca, è poche forze, specialmente quando è messo le cuffie. Cosa si fa per toglierle? Allora, aspetta che lo devo vedere visivamente. Lo prendo un attimino, allora io ricordo che bisogna premere il tasto funzione in alto a sinistra, bisogna toccare il tasto funzione e poi toccare uno degli altri tasti, adesso te lo dico, un attimino, Antonio, riprendi. Sì, adesso l'ho qua. Papà, ciao Giammari, ben sentito. Ciao a tutti. Ok Antonio, buonasera. Infatti c'è il tizio sulla settore del canale, cazzo, ogni volta che cambio canale mi fa la stessa cosa, uso molto le cuffie io, no? per la TV, è troppo rumore, troppo forte, e vorrei togliere, ma io non sono riuscito, non saprei come fare a togliere, non capisco, perché a metà del computer non sono capace a toglierlo, capito? Mi sembra che ci voglia il computer, boh. No, penso che si può fare anche a mano così. Sono apparecchi che hanno un sacco di funzioni, caro Sergio. È un casino, io l'ho avuto e poi quando funziona così, cambiavi il display, eccetera, eccetera, poi dovevi programmarlo, a volte secondo quello che toccavi, non ne capivi più nulla, ci usciva direttamente 30 MHz, partiva dai 30 e saliva su. Ma quando funziona così, la faccia impazzire, ho preso e è venuto subito. È bello come apparecchio, perché è bello, c'ha le batte che c'ha, però c'ha anche l'eco, è un po' sofisticato, capito? Non è per me una cosa del genere, sono condotto, quindi no, non voglio andare a uscire in capo con un apparecchio che ha messo di tutte queste funzioni. Io non sono capace, ho provato tutte le maniere. Boh, a spenderlo, a toccare il tasto, ecco, non c'è da fare, non cambia si mette il numero 9, il canale 9, pure un'altra sigla, però non sono riuscito. Infatti invece Marco lo sa come fare, capito? È un po' come si può fare, ecco. Io non ci riesco perché ho provato varie volte, capito? Eccomi. Dimmi Marco, vediamo un po'. È un macchinato a qualche forza, aspetta a me pure il cuffio, ti fa sordo, gatto. Lo so. Allora, non so se tu ce l'hai davanti, no? In alto a sinistra c'è il tasto function, certe volte non ha nemmeno dicitura, è il primo in alto a sinistra. Subito dopo, a fianco a quello, c'è il tasto RBBP. C'è RB è scritto sopra, e scritto sotto c'è BP, Bari Palermo, insomma. Tu premi in sequenza, function è questo BP, RBBP, in sequenza, e ti dovrebbe togliere il BIP. Aspetta, vedo un po' che mi prendo l'occhiale, Marco, scusa, eh. Eia, sul mio è così, sì. Perché se premi solo il tasto del BIP, no? Senza il tasto function, entra la funzione primaria che è il BIP. Invece premendo il tasto funzione più quel tasto entra la funzione con la dicitura che è sotto il tasto, BP, che sarebbe il BIP della cambio canali, ed è veramente seccante. Quello è veramente, ti mangia il cervello, è molto seccante, è la prima cosa che va disabilitata in quella radio. Adesso provo, vi do un po', ecco. Adesso provo, scusa un attimino, e non succede niente. Non succede nulla, se rimane la frequenza. Ah ecco, anche forse è tolto, sì, non ha ragione. L'ho tolto Marco, sono riuscito a toglierlo. Sì, allora Gio Maria, ricordati, se tu premi quel tasto RB, Roger Beep, entra il beep a fine trasmissione, no, come il mio. Se tu premi funzione più lo stesso tastino che ti ho detto, sotto c'è BP e quello è per attivare e disattivare il BIP col cambio canali e con tutto. Quello è veramente fastidioso. Comunque hai fatto, sì. Sì, ho fatto, grazie Marco, non ti dico, ma sai che era fastidioso veramente. Poi con le cuffie è molto più forte ancora, capito? Per cui ho pensato anche, ma senz'altro Marco lo sa. E già sono riuscito, ti ringrazio Marco. Eia. E quindi ricordatemi di questa cosa, il tasto funzione ti permette di abilitare la funzione, insomma la scritta sotto il tastino, il tastino ha due funzioni, una diretta e una col tasto funzione che serve ad abilitare la voce che c'è sotto il tastino. Va bene, ok, sono contento che hai risolto, dai, ma stai usando quello adesso, sì? Sì, sto usando quello, infatti, cazzo, ma sa quante volte ho provato, mosso tutti i tasti, niente a fare, no, non ci sono mai riuscito, e Luca tutto a dirlo a te, già sono riuscito, ti ringrazio ancora Marco, vai, riprendi ancora con l'Antonello, dai. Sono contento, dai. Era una fesseria comunque, come vedi, basta saperla la cosa, la funzione è facile, l'importante è che te lo ricordi. Quindi quando vuoi lo puoi attivare, solo che nessuno ne attiva perché è fastidioso. Antonio, riprendi che vado a bere. Come avere il pace, se dovete tre, quando mettete le cuffie, scacciate, portate il trucco stesso della cazzo, lo sentivi in cuffia, era una cosa massacrante, era, figurati. Adesso era le orecchie a cosa, palafango ti faceva. Aspetta un attimo che mi stavo chiamando. Io infatti ho risolto un bel problema. Grazie Marco. Ma sa quanto tutti i tasti ho provato a toccare, abbassando i punti. Niente, non sono riuscito, invece un attimino una cazzata. E adesso è uscito, meno male. Almeno sono tranquillo adesso Marco. Lei Antonello dice che è troppo complicato, ma anzi il 6009 alias 5005 non è complicato. È complicato è il nuovo 3009, perché ha le stesse funzioni di quello che hai tu, ha la forma del 3009, ma ha le stesse funzioni di quello che hai tu. E lì è veramente un caos, perché quando vuoi attivare certe funzioni, la maggior parte delle funzioni che siano da menu o anche non da menu, devi spegnere l'apparato, premere una combinazione di tasti, riaccenderlo, e poi le informazioni ti compaiono nel display dei canali, no? E ti devi ricordare a memoria cosa sono quelle sigle di questi segmenti che appaiono sul display. È quello è veramente un macello, è un macello. Però sai cos'è? Chi prende il 3009 nuovo, che è dentro la scheda del tuo, immaginati un 3009 di aspetto come il classico, però con la scheda del tuo e del mio dentro. E l'hanno fatto. Dicevo, chi compra comunque un apparato del genere, se lo usa come un 3009, cioè con i comandi frontali e basta. Poi se uno è esperto si può attivare questi menu, ma lì è veramente una dannazione. Col 3009 nuovo è un caos. Posso immaginare, e già che per me magari è un caos anche per questo qua, ma io ripeto, lo uso poco e niente, specialmente adesso è più poco possibile lo uso. L'altro giorno mi stavo dando fastidio veramente, ma come si fa a togliere? Ah, addirittura se l'ho fatto la casa e voleva mandare sullo scatto la foto, e non mi hanno saputo dire niente. E infatti l'unica soluzione è tu che ho sentito che l'hai mangiato un pochettino qualche cosa le sai, allora è stato fatto il banco. E ti ringrazio veramente perché era troppo fastidioso. Già lo uso poco, però il poco che uso sempre con le cuffie e mi dava molto fastidio, capisce? Per quello adesso sono tranquillo che posso girare tranquillo il canale, non sento niente. Grazie ancora Marco. Comunque il bello di quell'apparato è che quando vai a programmarlo, perché il tuo ha, mi pare, 40 canali per banda, vero? E l'hai lasciato così, 6x4, 24, sì, 240 canali. Se lo programmi puoi fare fino a 60 canali per banda, 6x6, 36, 360 canali. Ma non solo, te li puoi personalizzare come vuoi tu. Ti puoi mettere, che so, nelle zone amatoriali ti puoi mettere allo zero finale per ricevere i radioamatori, sai, sì, poi usano frequenze intermedie, però lo zero finale è più comodo. Oppure in una banda ti puoi mettere i canali inglesi in FM, quelle che hanno quella canalizzazione particolare. Insomma, te lo puoi personalizzare come vuoi tu con la programmazione. Magari ormai, prima magari mi interessava, ma adesso una volta, purtroppo che lo accendo 10 minuti la sera, quindi qualche volta, per cui non mi basta così Marco, per cui non è per me adesso, capito? Ma comunque c'è anche un altro sistema che manca, quando vedi sotto dove ci sono i quadretti delle, come parlo, della linea da 1 a 30, quando abbatto la portante si cancellano quei numeri, come mai? Allora, la linea da 1 a 30, in quale apparato? Aspetta, ripeti, col 6009 per caso? Sì, 6009, è quello preciso al tuo, dai, sembra non sapere quello che sto usando adesso. Infatti quando abbasso la portante, questi da 1 a 30, quelli si cancellano. Però i quadretti della modulazione va e non riesce a sapere a quanto arriva, perché ci deve cancellare, non rimane inserito da 1 a 30? Quelli erano i watt, no, adesso aspetta, il 6009, fammi fare mente locale. Ma non è che tu hai messo la potenza al minimo? Perché se metti la potenza al minimo, in trasmissione non hai segmenti accesi e ti fa vedere solo la modulazione. Però se metti la potenza più alta, o meglio ancora, al massimo, allora vedi, ti segna che ne so 10, ti segna 12, così una cosa del genere. Ma chi addirittura si cancella quando metto la portante, spariscono i numeri, capito? La linea fino a 30 sparisce, però i quadretti della modulazione va davanti, perché non riesce a sapere a quanto arrivi, capito? Se no magari riesci a contare, a saperlo qua a quanto arrivo contando i quadretti, ma no, certo, io ne ho visto un altro che non si cancellava i numeri da una 30, capito? Oddio, quello lo dovrei vedere. Però a me, io so solo che se trasmetto in AM, perché lì c'ha tre scale, 6009 ha tre scale, mi pare ti fa vedere il segnale, vabbè, ricevuto quando è ricevuto, la potenza emessa, che poi è molto alla Carlona, e le stazionarie anche, c'ha tre scale, quindi rosmetro, potenza e poi, vabbè, lo smitter vero e proprio. E lo dovrei vedere, perché lo sai che certe cose a memoria non me le ricordo, finché non ce l'ho davanti. Però è strano che si cancellino tutti quando trasmetti, vabbè. E infatti, come abbassa la portanza si cancella, così che le lancette vanno avanti, però no, i numeri si cancella, tutta la striscia dei numeri della portanza si cancella, bollo la portanza e ritornano normalmente. Aspetta, ma tu vuoi dire che vedi i quadratini, vedi i segmenti, ma ti sparisce la scala numerata ti sparisce, e quella però sembra un'anomalia. È quello che voglio dire io, Marco, forse non mi sono spiegato bene, quello lì è i numeri da 1 a 30, capito? Quelli, tutta la linea si cancella quando abbassa la portanza, la bollo e ritornano, si riaccendono. Quello lo dovrei vedere, ma è strano però che le scale non dovrebbe sparire la scala graduata. Vabbè, poi sai, qualche magagnetta questi apparati ce l'hanno, per esempio il 9009, per esempio, quando trasmetto certe volte, quando mollo la portante, se ne va un canale sotto, oppure mentre la premo se ne va un canale sotto. Non ho capito se c'entri qualcosa con i tasti up down, che c'è qualche valore, siccome lavora tutto con le differenze di impedenza lì, mi pare, no? Come spiegarlo? Dovrei mettere un mic dinamico, vedere come si comporta. Allora lì, per ovviare a questa storia, se sono sul 10 devo mettere il blocco che ti blocca tutto, no? La manopola canali te la blocca, e anche le tastiere ti blocca, almeno non se ne scappa negli altri canali. Non è che mi sento più tanto, adesso per esempio la portanza adesso è a zero proprio la potenza, e sono 5 watt scarsi pure, per cui aumentando è la stessa cosa, no? Adesso se ne va le quadrette se ne vanno anche a 30, però i numeri si cancellano. Non è che mi interessa più di tanta cosa, se c'è un metodo per bloccarlo qua dietro sarebbe una cosa molto utile, anche quello, Marco. Però dubito che sia una funzione attivabile o disattivabile, mi sa più di bug, mi. Ti spiego, siccome quegli apparati praticamente hanno dentro un software, tutti usano un software come fossero dei computer, capito? E se il software è bacato può dare problemini un po' strani, ecco, strani. Non sono più baracchini puri, hanno sempre delle informazioni elettroniche, diciamo, in un chip, capito? Come un computer, te l'ho detto. Infatti perciò li puoi programmare anche là, col computer, li puoi modificare certi parametri, certe opzioni, poi hanno tutti anche il menu di servizio, che quello è delicato, usato con cautela, ti permette di centrarlo in frequenza se ti accorgi che comunque è fuori frequenza, gli puoi regolare, vabbè, vari parametri, adesso non mi ricordo quali, io non l'ho fatto però. Non l'ho fatto sul 5005, no, l'ho lasciato originale. Vediamo se è rientrato Antonello. Antonello? Ehi, sono rientrato. Ok. No, è una cosa buona che abbiamo fatto, grazie, ma devo chiedere per forza. Ti ringrazio sicuramente, in seguito vediamo un po', però no che mi interessa più di tanto. Tanto più o meno so quanto esce, quanto riesce a sapere. Ok, grazie Marco, e buon proseguimento e saluta in casa, già ci sentiamo un altro momento, ok Marco? Capo, ciao Gio Maria, ci sentiamo, dai, buon proseguimento di serata e buon tutto, alle prossime. Ok, ciao a Cattarella. Eia, ciao Gio Maria, ci sentiamo, stai bene, buon tutto. Cava, avanti Marco. Ti dicevo Antonio, stavi parlando del 5005, no? Tu l'hai avuto sotto mano, hai detto troppo complicato, no, quello è niente, il 3009 nuovo è deleterio per attivare le funzioni, cioè il 3009 nuovo ha l'aspetto del 3009, ma dentro c'è la scheda del 5005, per dire, del 6009, di questi qua tutti piccoli SMD, no? E lì addirittura per attivare certe funzioni di menu devi spegnere l'apparato, poi premere una combinazione di tasti, riaccendere l'apparato, poi ti devi interpretare i segmenti che compaiono sul display dei canali per capire, ti devi ricordare quelle cose che appaiono a cosa corrispondono. Guarda, un incubo, è quello, veramente un incubo. Non è roba bastonti. Natalino ce l'ha avuto quello, il 2009. Io c'ho quello vecchio, basta quella, almeno si può riparare. Ce l'ho ancora. Ah, c'è ancora? Perché sai come aveva detto, dice, c'è un 2009, mi ha detto, dice, da riparare, mi ha detto, Antonè. Dice, te devo volare per pizza, mi ha detto, esamelo, ho detto, quando vuoi. E invece non me l'aveva portato. Ma Antonio, tu forse volevi alludere al 5005, quello 55, non so quanti 5 abbia, quello lì ce l'ha tuttora. Il 3009, vabbè, sì, aveva smesso di funzionare purtroppo, ma era una versione ambigua, molto ambigua, francese credo, quelle della CRT che hanno praticamente stravolto la scheda classica, capito? Già lo so, no, 5005 me l'aveva venduto Natalina a me, poi io l'avevo dato a Tonino Kawasaki, l'avevo venduto, e avevo iniziato 150 euro, poi avevo venduto Saturneco a Piero Drago, e poi con quei soldi lì li avevo dati a Claudio 300 euro per darmi il 140. Ah, ma qui il Natalino, l'Anettone non ce l'ha più. Sì, che me l'ho ricomprato, quello che è arrivato nuovo, quando mi si è rotto il 3009, e non sto parlando con quello. E mi sembrava strano infatti. Ah, ne hai avuti due ne hai avuti, ok. Vabbè, Gio Maria era entrato per una cosa, che gli era entrato quel bip al cambio canali, è molto fastidioso, molto forte anche, mi pare che non si possa nemmeno abbassare. Sì, infatti, perché la funzione, il tasto funzione serve per abilitare la seconda funzione che hanno quei tasti. Esatto, gliel'ho detto, in realtà se premi prima il tasto funzione e subito dopo uno dei tasti abiliti la scritta che c'è sotto al tastino, cioè già l'ha capito, dai, infatti ha posto rimedio, dai. Già lo credo, dice, lo sentiva in cuffia fortissimo. Antonè e Natalino, ieri notte, a notte tarda, tipo l'una, le due di notte, vabbè, iniziata anche prima, mezzanotte, è salita questa propagazione, c'erano tutti i canali pieni di tedeschi, segnali anche discreti, in FM e anche in banda laterale. Mi sono collegato alle 10 di notte io. Quindi figurati, c'avevo il baracchino sempre acceso, sapevo, il figo dopo ho visto che... sono dentro, non c'era niente. Sono con i camion. Ah, ecco, con i camion. Comunque Natale, tanti saluti da Simona, si sta riprendendo, vado male. Sì, già me l'avevi detto, salutala. E ya, salute di cambiare adesso. Oh iaia, io sono a dolori sempre, e speriamo che mi chiamino subito. Non ce la faccio più. Natalia, ma cosa ti fanno prima? Quella cosa che ti fa male, cioè la vescica o l'aneurisma ti devono trattare? No, la vescica devono trattare prima. L'aneurisma non si sa. Già gli ho mandato l'attacco e la vedono. Però mi devono chiamare per la vescica. Sono crepato, sono qua. E la vescica è dolorosa, adesso qualcosa di Gian Piero, che c'è il catetere quando si è svuota subito, come si chiama, l'urina, e ci sono il ceto vicino che è mezzo tappato, c'ha questi dolori forti, capito? Sì, ma io c'ho cosa brutta e devono tagliare. Oi, oi. Non è che ti taglio il pisello, no? Mi dagli anni tutti, l'importante è che mi passano i dolori. Sì, cosa brutta, il toccaferro, prima devono fare la biopsia. Sì, è brutto, Se ti ho detto brutto vuol dire che è brutto. Oh, mamma mia. Vabbè, allora meglio toglierlo prima di subito. E il ricovero l'ho già fatto, gli esami andavano bene. Adesso a breve mi chiamano per il ricovero, capito? A pezzi ero il giorno del pre-ricovero, mamma mia. Sono arrivato a casa uno straccio. Beh, meno male che l'hai già fatto, vuol dire che è imminente la chiamata. Ma sempre a Sassari, sì. Sì, sì. Vabbè, almeno è vicino, sto. Penso io ogni volta ci devo uscire a cosa, in punta di casino. Voglia. Continua la corsa. Purtroppo, vabbè, o uno la piglia con filosofia o getta la spugna qua. Certamente tirare a campare qua non è. Cosa vuol dire? Una cosa Antonio voleva dire o chiedere? Boh, non me le ricordo più, mi verrà in mente. Vado a bere, riprendi Antonello. Ehi, d'accordo. Ho visto adesso vogliono cambiare frequenze per questo cavolo di 5G, devono fare un altro di VBT2, non mi ricordo cosa diavolo è, e chi non c'ha quel televisore lì si attacca a puffa, si attacca. Chi ha comprato il televisore del 2017 si trova inculato. E cosa vuoi che ti dica? Io non me lo ricordo quando l'ho preso, ma questo è di modello nuovo, da. Ah, comunque volevo dire che a me questo passaggio digitale, questo farci comprare decoder o TV nuovo è sembrato una mezza fregatura. E vi spiego il perché. Perché a me hanno regalato un televisore non predisposto, in teoria non era predisposto per questo, era vecchio. Era del 2008, mi pare, 2010, cioè ben più vecchio del 2017. Di quello già utilizzabile. Beh, io col televisore lì vedo la maggior parte dei canali. Quello che non vedevo erano quei canali di prova, ti ricordate, l'impare era il 100 e il 200. HD, HEVC, 265, quello che vuoi, quelli non li vedevo. Però alla fine io vedo il 90% dei canali, cioè i canali dei film, li vedo tutti. Alla fine questi decoder li abbiamo presi e ce li siamo, almeno, mamma vabbè c'ha il televisore nuovo, perché no? Io questi decoder, almeno in camera mia, me lo sono tirato a spalle, capito? Giusto un canale di quelli dei film, il 37, non lo vedo. E allora sono costretto a mettere il 37 e il decoder che è già collegato comunque. Una mezza bugiarattura era, dai. Io c'avevo un televisore appunto non predisposto per il nuovo sistema, eppure vede bene i canali. Quindi sai, hanno fatto una cosa a metà strada. Certi canali poi li avranno convertiti, certi no. Ma io guardo, a parte che io guardo solo canali di film. Cioè immaginate, vabbè, la RAI meno, tipo Rete 4, Canale 5, Italia 1, il 7 oltre 9, quindi dal 4 al 9 fatte. E poi dal 20 al... adesso non so, non sono tutti i film, fino al 49 più o meno, dai, saltando tutti quelli, poi vabbè guardo Focus, quella roba lì, però è stata una mezza bugeratura, te l'ho detto, l'hanno fatto spendere un bel così per poi scoprire che con alcuni televisori, non tutti, però con alcuni televisori abbastanza vecchi, vedevi lo stesso. No, no, io con quello 17 pollici non vedo più niente. Mi scrive che c'è il programma iniziato a, capito, però non c'ho né audio né video, invece nell'altro, nello smart TV quello bianco che avevo comprato al Conat, quello vedo tutto, e anche quello che c'è in camera da letto. L'ho pagato 300 euro. Capito, adesso quello 17 pollici che ho qui, piccolino, che mi portava Simona in ospedale quando era ricoverata tanto tempo fa, non vedo più niente, mi tocca comprargli i decore, capito? Però adesso aspetto che escano questi decore nuovi, perché se mi prende un decore vecchio e attaccaselo a pupa. Io avevo comprato uno un giorno da Bricome, pensavo che era 47 euro, convinto che avevo pagato 47 euro, arrivo a casa e avevo pagato 4 euro e 70 centesimi. La sentivo questo, chiamava con impeto, gli ho detto una cosa di FM. Eia, vabbè, insomma, si decoder, vabbè, e sai dove è tornato utile il decoder? In cucina, dove abbiamo un piccolo televisore, pensa, 4 terzi, non è nemmeno se è un 4 terzi LCD, ma è vecchio di 25 anni, pensa, c'ha 25 anni, o comunque più di 20. Quello vabbè era talmente obsoleto che lì decoder, per vedere qualcosa ci vuole per forza il decoder. Tanto cucinami tra i vapori dell'acqua bollita, la roba della frittura, lì non emettiamo televisori belli, se no si sciabideggia. Ah, quello è successo a me, quello di cucina, e a volte si vedeva bene, a volte non si vedeva per niente, si vedeva tutto quanto altro, ci avevo dovuto mettere l'antenna a quella spina di pesce, l'unica che andava bene, e vedevo il televisore benissimo, invece se rimettevo l'antenna centralizzata nel condominio, si vedeva tutto strano, si vedeva. Alla fine l'ho regalata a mia nipote, installato a casa sua e lo sto usando lì 1.32 in pratica Smart TV. Ma portateli di tipo nuovo, ma se ne trovano televisori. L'altra volta ho visto uno 100 euro di televisore, però non so se era tipo BT2 Smart TV, la verità, l'ho visto da MD. Perché me ne servirebbe uno portatile per portarmela all'ospedale. Un 17 ti va bene, un 12, sì, se c'è. Io a Simona avevo portato uno di quelli, gli ho fatto il cavetto da 2 metri e l'ho agganciato dal comodino direttamente su dove c'era la spina, che c'era la spina TV nel comodino, lui si guardava la televisione insieme a quelli che c'erano vicino, capito? La guardavano in due o tre, quando era ricoverata in medicina. Non bisogna vedere e chi ci va a trovarmela, se no per forza andare. A Tali, sai che non ne vale più la pena però di portare il televisore, ti spiego perché. Tu basta che ti installi Rai Play e Mediaset Premium, o come si chiama? No, Mediaset, vabbè, l'applicazione, l'iscrizione gratuita, e ti vedi tutti i canali Mediaset di film, i telegiornali, i telefilm, quello che vuoi, ti vedi i canali Mediaset e poi Rai Play ti guardi i canali Rai. Una volta che hai quei due, che quindi tu ti puoi vedere film, ti puoi vedere tutti i film che vuoi, quelli in prima serata, adesso non ha più senso quasi avere il televisorino portatile. Ah vabbè, anche tutto TV se per questo c'è, ci sono un sacco di film. Lo sentite questo mammalucco in FM? Sì. Aspetta, Santiago 5 a me mi arriva. Santiago 6 qua. Sta parlando con un altro connazionale, credo. Mammalucco. Ma non è. Io mi rispondo, mammalucco sei tu. Di solito io a quest'ora mi fra un'oretta se vado in 27200 ci sono i cusi, la Georgia, la Russia e cosa, e mi arrivate a prendere per il culo perché gli faccio hola hola Coca Cola e mi rispondo. Comunque, a questo proposito, anche oggi sta salendo una propagazione simile a ieri, ma una cosa strana che era di notte, si sentivano gli americani del Super Bowl, vabbè, quelli sono a kilowatt, ma c'era tutta la Germania, NFM e in banda laterale. Tant'è che ieri notte ho sentito su un canale che non lo sentivo da tanto, è un figlio di Damuros, non mi viene il nome in attivo, che io ero girito, stavo parlando con qualcuno che io non sentivo e a un certo punto questi segnali di propagazione erano così forti che avevano problemi a comunicare tra di loro anche, capito? Ah, e beh, quello sì. Un aiettino ce lo stava del sole comunque, ya lo sai, con queste eruzioni che fa, le macchie solari, più ce ne sono e più propagazione c'è, capito? Sì, ci vorrebbe un bel flare di quelli devastanti puntato verso la terra, così almeno ci sbarra il campo magnetico, perdiamo lo scudo magnetico e ci bruciamo tipo polli cotti al microonde, mi uguale. Guarda che le ha già fatto il danno, lo sai, in pratica ha cambiato il nodo, l'ha spostato di non so quanto, hai capito? Se ne sono accorti perché ci sono delle sonde che hanno messo negli oceani, in pratica il campo magnetico hanno notato che si è spostato. E perché sposta oggi, sposta domani, poi dice che potrebbe essere anche invertito in futuro, chissà cosa può capitare, noi non ci saremo naturalmente, ma non è detto, e anche dipende quanto campiamo e vabbè, ho perso il filo, dai, siamo lì comunque. Sì, bella propagazione. Probabilmente lui stava parlando con gente, sai, tipo Isola Rossa, quelli lontani, o Zeri, quelli che sente lui, io non sentivo niente. Però, e i tedeschi come arrivavano, mi cazzo del segnale a bomba. E quello già lo so, già li sento anch'io. Tedeschi, russi, la Russia è una cosa allucinante qua, ce l'ho, la prendo in pieno. E invece in PMR sento la Corsica, sul canale 10 e sul 9. Ti ricordi i taxi russi quanto si sentivano anni fa? All'inizio degli anni 10, 2010 e dintorni, erano una cosa terrificante, tutte le mattine, segnalonimi, e sentivi la classica signorina che parlava in russo in FM. Ci sono ancora, ci sono quelli, non ti preoccupare, ho sentito io l'altro giorno. E io figlio di Androcchia, una volta una di però era lo scoglio da Porto Torre, sì, quel punto alto mi dà la macchia, ho cominciato a dire curva, attacca questa a Boggi, naturalmente il russo non capivi niente, ma mi ha mandato qualche bestemmia. Come minimo sì. Ho magari vado a bere già. Comunque ci sono, gli ripetono le cose tre volte, quelle ragazze del tassi, quelle che gli hai chiesto tu, l'altro giorno gli ha ripetuto la cosa tre volte. Natalino, mi prendi un po', dai, che sto asciuttando, vado a bere. Oh, poi vedo passare, devo farmi di roba, devo mettere la roba a candeggiare. Poi devo buttare roba, insomma non è che posso stare qua, mi piacerebbe, per oggi è giornata particolare, dai. E io me ne faccio due vetti, dai, che sento bene. D'accordo, Dali, ci sentiamo allora, stai bene. Comunque, alle prossimine. Avanti, Marco. Oh, scusate, stavo parlando in verticale. Allora, Natalino, sento, sta chiudendo. Natalino, ci sentiamo. Vabbè, adesso stringi i denti, che però comunque sì, quando rimuoveranno la cosa sarei già meglio. E Antonello, idem, compattate, ci sentiamo. Non so se rientrerò dopo, francamente. Vabbè, ritentevi salutati per oggi, dai. E ok, ciao Marco, ci sentiamo al limite, là. Non c'è problema, già sono all'ascolto. Cavallo c'è. Ah, poi un'altra cosa, spianto, ieri notte, quindi ho sentito propagazione a notte tarda, poi vabbè, c'è un arginito che si modulava con uno che però era lontanissimo da me, non lo sentivo. A un certo punto ho rimesso il canale 10, no, la ricezione su 10, per lasciarlo acceso durante la notte, no, con lo squelcio e tutto quello che vuoi, no? Con lo squelciato, ho sentito chiamare, mentre mettevo il canale, ho sentito, attenzione canale 10, tipo alle 2 di notte, e pagare, no, non ho risposto però, perché stavo proprio andando a letto. Ah, ok. Figurati. Yeah. La propagazione sta cominciando, visto che sta salendo. Piano piano già ci ripartiamo. Adesso, l'unica cosa non ho mai collegato, ieri c'era il Portogallo, ho parlato con il Brasile, poi da vediamo dove c'era, francesi, di tutto ieri. Sì, c'era anche, ecco, anche il Portogallo ieri, ma in LSB, loro stanno sempre in LSB, tipo 38, 34, 36, quei canali là, no? I soliti canali. Però vabbè, poi come parlano, lo parlano anche veloce, non riesce a capire nemmeno il parlato. Perché sai, tra magari portoghesi e brasiliani spesso si fanno di ex tra loro, e portoghese parlano loro, portoghese parlano in Brasile, quindi si capiscono subito, ma per uno che non conosce la lingua è un problema. Va bene, ciao di nuovo Antonio, ci sentiamo. Ciao, saluta Simona. E io saluto dei cambiati. Ok, ciao Marco, ci sentiamo. Buona luce, buon tutto, alle prossime.